Europa 24. Buongiorno a tutti, quando sono le 14:02:39, studio Daniele Biacchessi, diffuso il contenuto di una lettera riservata del 19 novembre in cui i commissari UE alla concorrenza e alla stabilità Vestager e IL sollevano le obiezioni all'uso del fondo interbancario di tutela dei depositi nel caso di Banca Etruria, Banca Marche, le casse di risparmio di Chieti e Ferrara. L'Unione Europea aveva messo nero su bianco la sua posizione sul salvataggio delle quattro banche. La lettera era stata poi evocata nei giorni scorsi anche dal Premier Renzi nel criticare le affermazioni del commissario Hill. Nessun commento giunge oggi dalla Commissione UE. La missiva, ricordano a Bruxelles, deriva e definiva le varie opzioni per la risoluzione degli istituti, l'obiettivo condiviso sia da Commissione che Italia di limitare il sostegno pubblico al settore bancario. Il governo portoghese avrebbe preferito una soluzione per la banca Banif, finita in risoluzione poi ceduta al Santander con una pesante iniezione di fondi pubblici per 2,26 miliardi che prevedeva la ricapitalizzazione dell'istituto, una fusione con la banca statale CGD. Lo afferma, secondo quanto riporta Bloomberg, il ministro delle finanze Mario Centeno. L'opzione è stata bocciata dall'Unione Europea, che ha autorizzato l'uso di risorse pubbliche perché la Banif era posseduta al 60% dallo Stato. Vediamo dunque i dati macroeconomici in Europa. In Francia l'INSEE ha confermato l'andamento del PIL nel terzo trimestre, più 0,3%. Significativa però la flessione dei consumi delle famiglie nel mese di novembre, quello degli attentati di Parigi, anche se non citati dall'Istituto Statistico. Sono scesi dell'1,1% mensile, il calo più forte registrato da gennaio 2014. In Gran Bretagna, sempre nel terzo trimestre, il PIL è cresciuto dello 0,4, meno del più 0,5 della prima stima. In Italia si registra invece il buon andamento di fatturato e di nativi dell'industria, mentre il commercio al dettaglio incassa la seconda battuta d'arresto consecutiva a ottobre. Via libera della Grecia alle unioni civili, come chiesto dall'Unione Europea. Solo 2 anni fa venne condannata per discriminazione dalla Corte Europea, ora Atene dice sì alle unioni civili tra coppie omosessuali. È una forma molto blanda perché non si parla di adozione, ma è un grande successo, ci spiega Daniele Viotti, co-presidente dell'intergruppo LGBT per i diritti umani di lesbiche, gay, bisessuali e transgender al Parlamento Europeo. In Europa la Grecia è l'ultimo dei paesi che si aggiunge a una lunga schiera di altri paesi che stanno andando verso il matrimonio ugualitario. Ricordiamo che oggi sono più i paesi che prevedono il matrimonio ugualitario, ma proprio il matrimonio, quindi tutti i diritti completi, di quanti i paesi che invece non hanno nulla, tipo l'Italia. Una quindicina di paesi hanno adottato una legge sui matrimoni, dal Regno Unito al Belgio, a Olanda, Francia, Spagna, Portogallo e così via. Poi ci sono i paesi che hanno le unioni civili, per ultimi Cipro e la Grecia, e quelli che invece non prevedono alcuna tutela per le unioni gay, oltre all'Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania. Chi non adotta delle leggi è controtendenza anche ai pronunciamenti del Parlamento europeo, che più di una volta si è espresso perché i paesi adottino le norme che riconoscono qualche forma, senza imporre il matrimonio ugualitario, ma adottino qualche forma di riconoscimento. Quello che bisogna fare è tanta cultura, soprattutto tra i giovani, partire da subito. Così conclude Viotti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 torna questa sera in effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.